Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, l'argomento di oggi, di questa trasmissione, lo voglio annunciare con una canzone. Prego. Ma siamo veramente figli degli hamburger? E quali sono le generazioni figli degli hamburger? Bene, oggi parleremo di questo argomento. Perché? Perché sicuramente in questo momento è un vero e proprio fenomeno in giro per l'Italia, ma direi anche in giro per il mondo. Prima è stato dissacrato dai gourmet, poi è stato addirittura considerato l'icona del capitalismo, e quindi è un argomento sicuramente da trattare, per vedere cosa sta succedendo, perché, come dicevo prima, addirittura a Milano nel 2013, alla fine del 2013, si prevedono 80 hamburgerie, quindi un numero davvero incredibile. Poi, se andiamo in giro per l'Italia, sentiamo parlare di Fishburger, Pitburger, Low Carb Burger, Veg Burger, e potrei continuare. Insomma, veramente delle declinazioni incredibili. Allora, cari radioascoltatori, se volete intervenire, numero verde 800 24 00 24. Ma cominciamo subito. E comincio con un personaggio da cui voglio una lettura del perché, cosa sta succedendo, e lo chiedo a Giacomo Moioli, tra i fondatori di Slow Food, oggi docente al Politecnico di Milano. Buongiorno Giacomo. Buongiorno Davide, buongiorno. Senti, ma tu come lo leggi questo boom incredibile, ormai in grandissima espansione? Forse è il prodotto, diciamo, più sulla cresta dell'onda di ogni altra cosa, del cibo. Sì, molto probabilmente anche per questo prodotto sta nascendo quello che per altri prodotti si è generato recentemente, dal gelato al cibo di strada e via discorrendo. Se dovessimo dire la verità, io mi ricordo che da piccolo c'era la famosa Svizzera, che certo, in fin dei conti era un hamburger creato con un aggeggio che oggi diventerebbe un oggetto di culto nel mondo del design, che realizzava delle hamburger che si comperava la carne trita dal macellaio e le nostre mamme ce lo facevano, parlo di 40-45 anni fa. È chiaro che oggi questo si sta sviluppando in modo esponenziale, come in tutte le cose. Il dubbio, che tu conosci meglio di me, è: ma che materia prima verrà utilizzata? Quale qualità e rintracciabilità avremo nel generare tutte queste quantità di prodotto? Ben vengano quei fenomeni che generano cultura e fanno qualità. Io non mi scandalizzo più. Quello che è importante è che non diventi un fenomeno alla moda, un po' fighetto, perché quello che vedo io affacciarsi all'orizzonte è un ritorno di una sorta di Milano da bere in versione food. E questo un po' mi preoccupa. Guarda che il problema non è solo Milano, perché poi sentiremo anche al sud, ci sono due o tre, diciamo, hamburgerie divenute molto, molto famose, che usano carni molto pregiate, ad esempio la Podolica. Ecco, il grande cambiamento è che io leggo appunto le ricette, ho anche mangiato qualche hamburger di questi diventati famosi, usano Kobe, usano carne chianina, usano la Granda Piemontese, insomma. Devo dire che c'è un cambiamento a 360 gradi, e devo dire che anche i prezzi, caro Giacomo, qui ci sono degli hamburger che costano anche 30 euro, quindi sicuramente siamo su un'altra dimensione. Ma sentiamo subito, c'è un radioascoltatore, Guido da Modena. Buongiorno Guido. Buongiorno Paolini, buongiorno. Seguo sempre volentieri, quando posso, la sua trasmissione, perché è sicuramente sempre molto molto interessante. Io non sono mai andato a mangiare degli hamburger, l'hamburger io lo vedo come McDonald's, quindi io ecco, escludo. Questo è il punto, poi lo tratteremo. Bene, mi dica comunque. Io escludo a priori di andare a mangiare un hamburger, adesso mi parlava di carni selezionate, di posti dove utilizzano delle carni pregiate, questo forse già un altro discorso, ma io lo vedo sempre come un qualche cosa che per me è al di fuori, perché tutto quello che è un qualche cosa che non è facilmente controllato e tracciato come la carne macinata. Io preferisco eventualmente andare dal mio macellaio e me la faccio macinare. Ma Guido, la fermo, perché ci sono, poi le sentiremo, ci sono alcune hamburgerie che hanno tanto di cartello, tanto di allevamenti alle spalle proprie, quindi diciamo, cominciamo a fare dei distinguo. Ci sono alcuni che danno anche la tracciabilità e ce ne sono forse molti altri che non le danno. Però grazie Guido da Modena, grazie. Io devo dire che Giacomo Moglioli mi ha dato veramente un assist. E Svizzera. Allora voglio fare lanciare questo sondaggio. Ma perché si chiama Svizzera questa carne macinata che si mangiava, mangiano ancora molti? Ci sono anche molti locali a Milano, ad esempio la latteria di San Marco che fa la Svizzera. Perché si chiama Svizzera? Giacomo, un'ultima battuta. Secondo te questo, diciamo, questo hamburger gourmet, questo hamburger da 3 stelle, avrà futuro? Avrà un futuro temporaneo, perché poi è sempre una questione di limite. La podolica, come altre tipologie di razze, non potranno essere moltiplicate se non avremo un rispetto della quantità e del tipo di allevamento. Credo che poi tutto ci sfuga dalle mani, per cui ben vengano quei locali che in un certo senso nel prossimo futuro promuovono l'attenzione verso la qualità, ma poi nelle case dovremmo tornare a richiedere di mangiare della carne macinata che compreremo, io spero, ancora in alcune macellerie. Bene, grazie Giacomo Moglioli. Sentiamo Francesco da Vicenza, un radioascoltatore. Prego, velocissimo, Francesco. Buongiorno. Buongiorno Davide. Beh, noi in famiglia facciamo un larghissimo uso di hamburger che acquistiamo sia dal macellaio che in una nota catena di supermercati dove vengono venduti, e ci sembra che la qualità sia eccellente, perché fan parte di una linea chiamata Fior Fiore, che designa di solito prodotti di grande qualità. È un modo diverso, certo, di mangiare la carne. I miei figli si divertono, anziché mangiare la solita bistecca, si divertono anche a cucinarli, a prepararli, aggiungendo vari condimenti, salse, verdure anche, quindi è anche un modo per far mangiare i bambini, ho capito. Bene, grazie Francesco della sua testimonianza. Prego. Linea alla regia, torneremo fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare. Io vedo moltissimi sms che sono intervenuti a favore della Svizzera e chiedono anche la differenza tra la Svizzera e l'hamburger. Beh, l'hamburger è in mezzo a un pane, quindi più o meno, magari è poi l'hamburger ha in mezzo a un panino, l'hamburger ha anche, diciamo, dentro delle erbe, qualcuno lo condisce in maniera completamente diversa, quindi diciamo che l'hamburger è molto fantasioso, e come vedremo. E lo vediamo subito, perché abbiamo con noi uno chef importante e uno chef stellato che a Milano un paio di anni fa ha lanciato l'hamburger nel suo ristorante e ha avuto un successo davvero incredibile. Ora lo prosegue su altri ristoranti. Buongiorno Andrea Berton. Buongiorno, ciao Davide. Senti, ma come mai ti è venuta l'idea di lanciare in un ristorante come il tuo l'hamburger, e cosa c'ha di diverso il tuo hamburger? Beh, sai Davide, innanzitutto l'idea è stata perché era diciamo una pietanza che mi piaceva molto da bambino, no? Quindi. Ma ti piaceva la Svizzera o ti piaceva l'hamburger? No, l'hamburger col pane. Vabbè. Quindi l'idea era quella di renderlo piacevole anche con un pane giusto, no? Perché poi è importante. Esattamente. Che esattamente. Abbinato anche un pane morbido, digeribile. Quindi con una lievitazione naturale. Quindi da lì ho iniziato a pensare a un hamburger, tra virgolette mio, ma è molto semplice, perché la cosa importante nell'hamburger, secondo me, è come viene tagliata la carne, no? Quindi tagliare la carne a coltello, perché chiaramente gli dai una consistenza diversa che perché poi dopo rimane meno compatta, come posso dire, anche più piacevole da mangiare, perché comunque si sbriciola più facilmente quando lo mordi insieme al pane. E poi il pane deve essere, come dicevo prima, un pane a lievitazione naturale, ma allo stesso tempo mi piace anche grigliarlo, no? Insieme alla carne, quindi cotto il pane grigliato e poi la carne cotta grigliata piuttosto che su una padella, come uno preferisce, però deve essere ben arrostito il panino. E poi quello che io faccio nel mio hamburger è non arricchirlo troppo di salse, no? Gli metto solamente una maionese freschissima e dell'insalata molto fresca condita con un po' di limone e un po' di zeste di limone anche. Quindi gli do anche una freschezza a questo hamburger. Ecco, poi lo abbino anche con delle chips di patate alla paprika. Quindi c'è un po' di piccante anche che è sempre piacevole quando si gustano queste pietanze. Comunque devo dire che io l'ho visto con i miei occhi anche le richieste che avevi al ristorante ora che hai da pisacco, quindi sicuramente l'hamburger piace. E sentiamo Franco dalla provincia di Latina, buongiorno radioascoltatore. Ah, buongiorno. Le volevo dire che la cattiva fama dell'hamburger in Italia deriva anche dal fatto che la qualità servita da una nota catena, di cui non faccio il nome, è pessima, perché contiene carne di seconda scelta e poi mischiata con farine di soia, immagino. Invece io sono appena tornato da New York, sono stato in un posto che si chiama Five Napkins a Manhattan, cioè cinque tovaglioli, e mi sono dovuto ricredere. Un hamburger ottimo, fatto con carne di prima scelta. Quindi al ritorno ho cominciato a farlo anch'io, comprando la chianina, un bel pezzo di chianina macinato, ci metta sopra una fetta di cipolla di Tropea e poi mi sappia dire se il risultato non senta, è ottimo. Senta Franco, ma guardi che anche in Italia ormai ci sono dei posti dove mangiare l'hamburger molto interessanti, quindi sì, si può fare a casa come dice lei, ma si può anche mangiare. Ma guardi, lei ha fatto dei riferimenti, io ho con noi, guarda caso, come si dice, cade a fagiolo, Marco Ferrero, direttore marketing di McDonald's in Italia. Buongiorno Ferrero. Buongiorno a voi. Immagino che lei spesso sia un po', come posso dire, preso d'assalto sul discorso del McDonald's, dell'hamburger del McDonald's. Prima però io le faccio una domanda, ma non cominciate a temere questo arrembaggio che c'è di hamburger in giro per l'Italia e in giro per il mondo? Non pensate che c'è questa concorrenza sia, diciamo, molto importante? L'altra cosa, c'è una differenza di prezzo tra voi e, diciamo, queste hamburgerie davvero molto molto importante. Da che cosa dipende? Allora, innanzitutto, la risposta alla prima domanda o considerazione, se temiamo questo tipo di concorrenza, no, ci fa molto piacere perché qualifica e rappresenta il fatto che tutto sommato abbiamo noi tracciato una tendenza che riscontra l'interesse del pubblico, il gradimento dei consumatori, eccetera, eccetera. Non credo che saremmo qua a parlare di hamburger di qualità se non ci fosse stata McDonald's ad aprire una strada, tanto più in Italia, in cui il modo di mangiare carne non era certo tradizionalmente orientato verso l'hamburger. Quindi la concorrenza ci piace farla e ci piace subirla eventualmente, ci piace che si sviluppino questi dibattiti perché ci consentono di fare un po' di chiarezza. Io ho sentito un paio di ascoltatori che mi hanno dato uno stimolo, poi arrivo anche alla sua seconda considerazione, ma prima ho sentito recentemente parlare di pessima qualità e di hamburger impastata con farina di soia. Allora io invito non solo l'ascoltatore che ha fatto questo commento, ma tutti coloro che sono interessati ad approfondire l'argomento qualità o che parlano di qualità, banalmente di visitare qualche sito internet, di venire a visitare i nostri ristoranti, di capire meglio che cosa la legge prevede. La legge prevede che a un'affermazione debba corrispondere alla realtà. Noi affermiamo che le nostre hamburger sono 100% carne, senza nessun tipo di additivazione. Quindi sfido chiunque a dimostrare il contrario. Ed è per questo che mi leggo anche ad un'affermazione fatta, in questo caso non ricordo il nome, mi sembra da Guido da Modena. Sì. Carne di pessima qualità. Sì, certo, Guido da Modena, esattamente. La nostra non è assolutamente carne di pessima qualità. Bene, io poi le farò una seconda domanda proprio sulla carne, ma intanto diamo anche spazio ai nostri radioascoltatori. Sentiamo Matteo da Padova. Buongiorno Matteo. Buongiorno, grazie della possibilità. Appartengo purtroppo anch'io a quella fascia d'età che ci ricorda bene le svizzere. E mi capita molto spesso a cena, io ho due bambine relativamente piccole, elementari e medie, che mi dicono a cena c'è l'hamburger, io dico no, c'è la svizzera, perché io oggi vado dal mio macellaio di fiducia, mi scelgo il macinato, mi scelgo se voglio delle spezie e faccio le svizzere, secondo me. Dopodiché bisogna dire che per quel poco che vedo io ci sono molti esempi di hamburger ad oggi di grande qualità, appena aperto un locale nuovo a Padova, ma anche io l'anno scorso ho avuto l'occasione a un evento di mangiare un hamburger di Chianina fatto da Simone Fracassi, che penso lei conosca bene, sì. Ed era una cosa strepitosa. Quindi, secondo me, hamburger o sostanziale che sia, come per tutti gli altri prodotti, dipende quello che c'è dentro. Posso spendere 50 centesimi, posso spendere 10 euro. E non mi pare una cosa negativa di per sé la diffusione. Bene, grazie Matteo. Volevo tornare da Andrea Berton, velocissimo. Ma Berton, ti volevo chiedere questo. Pensi che l'hamburger, diciamo, visto che permette tanta fantasia, possa avere anche, oltre questo, un grande futuro proprio nelle cucine di grandissima qualità? Beh, sai Davide, l'hamburger è un piatto molto conosciuto, no? Quindi che è stato importato in Italia e ha creato un interesse notevole tutto intorno, e quindi credo che anche il proporlo in un ristorante, diciamo, diverso, un ristorante chiamato gastronomico, possa avere una sua logica, no? L'importante è che ci sia la qualità, io credo, no? Poi dopo si può proporre anche in una versione diversa. Io me lo immagino già l'hamburger, invece di servirlo nel panino, può essere servito con delle chips croccanti di pane in abbinamento, quindi una trasformazione dell'hamburger. Però beh, non rivelare le tue ricette, perché sennò poi magari credo che alla base ci sia la qualità importante, no? Perché la carne deve essere, certo, una carne di qualità, la carne che appunto di utilizzo di Simone Fracassi è eccezionale, quindi è importante riconoscere il prodotto nel modo giusto. Bene, grazie Andrea Berton. Allora volevo chiedere a Eugenio Roncoroni, che diciamo lo chef assieme a Nestor, a Beniamino Nestor, del ristorante al mercato di Milano, che ha un grande successo. Volevo chiedere innanzitutto che carne utilizza Eugenio. Noi abbiamo carne di Rosareggiana. Ah, di Rosareggiana. Italiana. Ecco. Dalle parti di Parma, diciamo. Sì. Ecco, volevo chiedere che voi fate un panino al foie gras, quindi diciamo sì, anche questo, voi fate diversi hamburger. Ecco, volevo chiedere, il panino al foie gras ha successo o hanno successo panini hamburger molto più semplici? Ma direi che sì, ha abbastanza successo, è per gli amanti del genere, nel senso che l'hamburger con il foie gras è l'apoteosi della pornografia dell'hamburger. Ah, bene, bene, bellissima questa definizione. Deve essere amante del foie gras prima di tutto. E comunque si direi che è un discreto successo, nel senso che poi il foie gras di per sé è uno dei nostri piatti, diciamo, più conosciuti, quindi unirlo poi all'hamburger, che è altrettanto importante nel nostro ristorante. Diciamo, Quanto costa l'hamburger al foie gras? L'hamburger al foie gras siamo intorno ai 22 euro. Ecco, mi dà altre declinazioni che fate con l'hamburger? Ma noi non imponiamo declinazioni nel menù. Noi abbiamo una lista di abbiamo un hamburger base e poi una lista di ingredienti che uno può aggiungere secondo il suo piacimento. Diciamo che oltre al foie gras cosa avete di particolare da aggiungere? Ma, sicuramente, allora, tutta una serie di salse, dalla salsa verde a un marmellato di vari tipi di peperoncino di diversa piccantezza, abbiamo una lista abbastanza lunga di formaggi, dai più mild ai più forti, direi che c'è più o meno. Quindi grandissima varietà. Grazie, sì. Grazie Roncoroni. Mario dalla provincia di Brescia, dall'ascoltatore, brevissimo, eccomi. Brevissimo, due cose. Allora, una, che io ho ancora la macchinetta per fare gli hamburger, anche domenica sera me li sono fatti con patate Kennebec fritte a mano, una delizia. Ma volevo dire che il mio primo incontro con l'hamburger al McDonald's nel 77 in California, avevo chiesto al cugino dove ero ospite di andare, e ho detto, ah, che schifo. Beh, ho mangiato 3 Big Mac e penso di essere portati via 2 da mangiare in macchina, con delle birre che loro non le vendevano. Per cui chi è prevenuto contro certe cose, vabbè, mi dispiace per lui, perde le occasioni, adesso è diffuso dappertutto e McDonald's si trova, non voglio fare pubblicità, non ho azioni McDonald's. Bene, bene, ecco, basta. Solo, grazie solo, Mario. Una sorpresa per me. Grazie, no? Mario. il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di hamburger. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 236 6666. Allora ricominciamo, io ritorno da Marco Ferrero, direttore marketing di McDonald's, perché volevo proprio arrivare a questo. Ferrero, la carne utilizzata da McDonald's in Italia è italiana o arriva dall'estero, e quale tipo di carne si tratta? La carne utilizzata da McDonald's in Italia è al 100% carne italiana, e questo mi dà lo spunto per parlare di un argomento che avete tratteggiato, la tracciabilità. All'inizio della trasmissione si diceva: qual è l'origine della carne, come possiamo essere sicuri di mangiare esattamente quello che vogliamo? Soltanto andare dal macellaio? Io ovviamente mi auguro di sì, purtroppo ho qualche dubbio, e questi dubbi noi li stiamo verificando, e ne stiamo parlando ormai da anni con il Ministero dell'Agricoltura in particolare, che ha questo problema della tracciabilità come uno dei principali della propria agenda. Io ovviamente sono certo che anche il foie gras messo nel panino del famoso chef sia un foie gras proveniente da animali allevati in un certo modo e in determinate zone del mondo, ma parlo per me stesso, posso darvi la garanzia e la certezza che tutta la nostra carne è tracciabile, nel senso che in pochissime ore noi possiamo risalire al nome e quindi alla provenienza, all'allevamento e alla tipologia di alimentazione che, con la quale è stata cresciuta, il progenitore e la progenitrice della vacca che ha contribuito a creare le nostre hamburger. Sì, Ferrero, però mi permetta questo, in Inghilterra avete avuto, lei non stiamo parlando dell'Inghilterra, però una polemica molto forte con un famosissimo chef che si chiama Jamie Oliver, appunto sulla carne degli hamburger. E a quanto è stato scritto, però appunto io riporto quanto è stato scritto, avete dovuto cambiare la carne in Inghilterra. Ma io non parlo per cose che non ho vissuto direttamente, e quindi molto spesso le polemiche purtroppo suscitano dei polveroni che determinano un tale movimento di opinione pubblica che le aziende sono costrette proprio malgrado anche a rinnegare delle politiche, delle pratiche che magari erano eccellenti e che non si riescono a far emergere. Quindi comunque in Italia la carne è certificata e si può, diciamo, la tracciabilità è sicura, è questo che lei dice? Quindi assolutamente, se anche voi, e io la invito, volete venire da noi, apriamo un cartone dei nostri hamburger a caso, e poi in 3 ore vi diciamo quali allevamenti ha percorso quel tipo di animale, quali erano i suoi genitori e con che tipo di enzimi sono stati cresciuti, ovviamente non agire. Bene, la ringrazio Ferrero, grazie della sua partecipazione. Sentiamo Gabriele da Modena, un radioascoltatore. Posso, pronto? Prego Gabriele. Buongiorno, io voglio confermare quello che ha detto il signore della Madonna, i loro hamburger vengono proprio da Modena, per contestare quello che diceva l'ascoltatore, dove si macella oltre l'80% della carne che si trova nella macelleria di Modena, di primissima qualità, e da lì vengono anche gli hamburger della nota ditta. Bene. Volevo solo confermare questo. Grazie Gabriele del suo intervento. Io ora però vado in provincia di Napoli, da Pietro Parisi, a Palma Campania, in provincia di Napoli, dove Pietro Parisi fa un hamburger che è diventato molto noto, di carne podolica, e quindi buongiorno Parisi. Ciao Davide, buongiorno. Insomma, ha successo il suo hamburger? Sì, sta avendo molto successo in questo momento, soprattutto nei giovani, anche perché la nostra idea era quella di portare i giovani a un consumo di carne locale e soprattutto di far conoscere queste razze un po' che non spesso vengono usate da macellaio, perché un po' perché non sono molto con infiltrati, un po' perché vengono considerate carne un po' da frollatura, cioè devono avere un po' più devono essere un po' più assistite per far sì che sulle nostre tavole possano diventare tenere. Quindi il nostro obiettivo era quello di offrire questa carne, ma soprattutto per far sì che anche i giovani siano i primi consumatori di questo alimento, anche perché crediamo che il nostro futuro sta nei giovani. Se non improntiamo e non costruiamo il nostro futuro su di loro, è inutile fare della cucina che sia fondata solamente su gente già in età avanzata. Bene, Parisi, ma anche il panino è di grande qualità il vostro? Certo, perché il panino è prodotto da una fermentazione lattica con grano Senatore Cappelli. Ti ricordo che il grano Senatore Cappelli fino al 1950 era il grano più usato nel sud Italia, è uno dei migliori grani italiani, che purtroppo, dato un po' per la sua altezza e per alcuni fattori imprenditoriali, è stato abolito fino a alcuni anni fa. Ma dal 2010 nell'Artirpinia, nell'Arto Formicoso, c'è stata una bella azienda, una bella cordata di contadini che hanno rivoluto ripuntare su questo grano Senatore Cappelli e innestandolo di nuovo. E quindi è nato di nuovo questo grano Senatore Cappelli, che era il grano più usato dai contadini. Grazie al panino alla Podolica di Pietro Parisi, Palma Campania, in provincia di Napoli. Bene, abbiamo con noi ora anche un personaggio che fa nella vita tutt'altro che fare hamburger, però ha scritto un libro che si chiama Quante storie per un hamburger, edito da Guido Tommasi, si chiama Matteo Ruisi. Buongiorno Matteo. Buongiorno. Matteo, la cosa che mi ha colpito di questo libro è un capitolo, perché gli hamburger fatti in casa non vengono mai come quelli dei fast food? Sì, ecco, sì. Io sono un grande appassionato di cibo di strada, di hamburger e quant'altro, quindi ho mangiato veramente di tutto, anche delle robe disgustose, proprio per capire, insomma, qual è il segreto di certi tipi di hamburger. Secondo me io l'ho trovato nelle salse. Io credo che la salsa sia la carta vincente di un hamburger, ovviamente non solo, ma ha una parte decisamente importante nella composizione, nel gusto dell'hamburger. Quindi tu pensi che a casa si possa fare, cioè fuori si possa fare di meglio, quindi, ma tu a casa ho visto che dai un sacco di ricette sulle salse, tantissime, quindi hai sperimentato? Le ho sperimentate tutte più di una volta. Infatti ho mangiato così tanti hamburger fatti da me prima di capire quale fosse il segreto del mio hamburger perfetto, poi ovviamente è solo mio, però spero che insomma possa essere replicato altrettanto. E sì, ne ho provate tantissime di salse, ho provato delle salse con la frutta, con i formaggi, con le marmellate, quindi ho sperimentato parecchio. Beh, io consiglio questo libro a chi voglia sperimentare a casa, perché veramente ci sono moltissime cose molto ma molto interessanti. Grazie Matteo, grazie, lo ripeto. Grazie. Quante storie per un hamburger, edito da Tommasi, Matteo Ruisi. Bene, ora andiamo a Roma da una chef anche lei stellata, Cristina Bowerman, la quale fa un, perché abbiamo sempre parlato di carne, qui si dice che si parla sempre di carne, ma stavolta parliamo anche di un hamburger vegano. Buongiorno Cristina del ristorante buongiorno, Romeo. Grazie per avermi invitato. E Glass. Ecco, tu ti sei inventata questo hamburger vegano perché c'è molta richiesta? Sì, tantissima gente. Durante tutti gli anni qui a Roma il numero di persone vegetariane o vegane o persone semplicemente che magari non amano mangiare la carne chiedono scelte differenti, per cui ho sempre avuto sia da Glass e quindi anche da Romeo delle scelte vegetariane, in alcuni casi anche vegane. Ecco, cosa c'è dentro diciamo al posto della carne? Cosa metti di solito? Qual è diciamo la ricetta più o meno, insomma, così non vogliamo la ricetta precisa. Sì, certo. Beh, ci sono tantissimi ingredienti che possono sostituire molto bene la carne. Uno degli ingredienti che amo maggiormente, ma amo maggiormente non perché sia in sostituzione della carne, ma proprio perché mi piacciono, sono i fagioli. Per cui ho messo insieme diciamo una ricetta che permette di sostituire la carne con i fagioli neri. E quindi quando si mangia, poi viene condito e preparato come se fosse un vero e proprio hamburger. In realtà la sensazione all'inizio è proprio quella di mangiare della carne, e poi successivamente in realtà si capisce ovviamente che non è carne ma fagioli neri. Beh, devo dire che tu hai anche vicino che ti può fare un panino straordinario come il forno Roscioli, quindi credo esatto. Che il pane incida in maniera decisiva. Tra l'altro ho mangiato proprio da te un panino con c'era dentro il foie gras, ricordo anche l'altro ingrediente, era un panino alla c'era liquirizia, ricordo esatto, benissimo esatto, che era straordinario. E quello è il nostro panino, diciamo, di riferimento, il nostro panino simbolo, nel senso, quel panino in realtà nasce a Glass 6 anni e mezzo fa. Poi chiaramente ha messo da parte ed è rinato con Romeo, ed è un panino alla liquirizia che per Luigi ha messo a punto proprio per questa ricetta, così come nel panino dell'hamburger vegetariano prepara un bun, così si chiamano, specifico proprio per quel panino. Sono molto fortunata, insomma, di lavorare con lui. Grazie a Cristina Bowerman, grazie, a presto. Bene, ora andiamo, perché esiste anche la pizza burger, e andiamo da uno dei big della pizza in Italia, andiamo da Simone Padoan, San Bonifacio. Buongiorno Simone. Buongiorno, buongiorno Davide. Senti, ma viene molto richiesta la pizza burger? Sì, perché come abbiamo sentito fino adesso piace un po' a tutti quanti, no? Quindi piace dai ragazzi giovani a quelli più adulti, perché un po' si torna giovani. L'hamburger è l'icona del panino nell'immaginario collettivo, quindi perché non giocare quando si deve mangiare, quindi è richiesto. Ma il tuo hamburger è di carne particolare, quello che fai appunto con questa pizza? È una battuta di carne, una razza piemontese, quindi la scelta della materia prima è sicuramente di una carne molto buona, un pezzo di scamone che viene tagliato al coltello, scottato leggermente in piastra e poi messo all'interno di una focaccia. E quindi proprio nell'idea classica del panino dell'hamburger, che noi abbiniamo poi con una provola, con un siciliano affumicato, con delle lattuga, invece del ketchup mettiamo dei pomodori confitti e mettiamo poi della salsa rosa per attingere tutti assieme. Bene, grazie Simone Padoan. Sentiamo Silvana da Pordenone, una radioascoltatrice. Buongiorno Silvana. Buongiorno a voi e complimenti sempre per la trasmissione. Sì. Volevo semplice dire che il mio macellaio di Fiume Veneto è eccezionale, perché fa queste specie di hamburger che lui chiama mi plus, cioè mi piace. Il fatto è che quando lo cucini senti questo profumo, che a volte ci si dimentica, no, dei profumi quando si cucina in casa, ed è veramente eccezionale. Dunque quando entrano in casa dicono: ma cosa stai facendo? Gli hamburger, i mi plus, e tutti sono più contenti. Silvana, ci fa venire fame, grazie Silvana. Sentiamo Gianmaria da Arezzo. Buongiorno Gianmaria, veloce. Buongiorno Paolini. Sì, io volevo dire, noi ovviamente siamo da Arezzo, nella patria della chianina, della sì. Chianina, esatto. Quindi prima erano già da qualche anno aperte hamburgerie di grande qualità con prodotti locali, dai tartufi ai funghi al pecorino di fossa, sempre con pani di grandissima qualità. Nell'ultimo anno ha aperto una specie di fast food che cerca di intercettare probabilmente la stessa domanda delle grandi catene, che si chiama Il Chianino. Ah, bene. Fatto anche però con la differenza dei prodotti, che sono quindi la chips fatta con le patate di cetica, ovviamente carne chianina. Insomma, un hamburger del territorio, ci sembra di capire. Esatto, però con un format tipico dall'arredamento eccetera del fast food. Bene, grazie Gianmaria D'Arezzo per la segnalazione. Il gastronauta. Eccoci di nuovo sul finale, sentiamo un radioascoltatore, Daniele da Fermo. Buongiorno Daniele. Prego Daniele. Bene. No, sono Tony. Bene, Tony, prego, parli però. Niente, io sono un autista, trasporto carne nella ditta di Modena, che vado nelle nostre ditte di Modena. Viene tutta la carne della Polonia, io non lo so, viene carne italiana macellata, che guardavo davanti agli occhi miei con le mucche che li traiano con le catene giù per terra, cioè mucche già finite, sterilizzate a 3, 4 anni, 5 anni, guardavo davanti agli occhi miei che li scaricano giù col muletto con le catene. Questo dove avviene, scusi? Tutti i giorni, vero. Tony, da dove ha visto questo? Giù nella Modena. Ok, va bene, grazie. Nella nostra ditta famosa italiana, insomma. Lì. Lei fa il trasportatore di queste carni, quindi? Di queste carni, io trasporto tutti i giorni carni, anche oggi ho scaricato, però quando entro dentro a scaricare è vero quanti camion vengono, 30 camion al giorno dalla Polonia, l'italiano non c'è niente. Bene, grazie a Tony da Brescia. Sentiamo Francesco Bianco. Francesco Bianco è di McBoon, l'agri hamburgeria di Rivoli e di Torino. Bene, è stato un personaggio molto famoso in questa battaglia sul nome, anche perché McBoon si può dire in dialetto torinese, e quindi diciamo che il nome è rimasto. Però mi interessa molto Francesco Bianco, perché ecco, qui quando parliamo di carne, di tracciabilità, ebbene, questa hamburgeria ha un allevamento proprio. Sbaglio o è così, Francesco Bianco? Buongiorno a tutti, ciao Paolini. Ciao. No, non sbagli, certo, noi abbiamo un nostro allevamento, quindi buona parte delle nostre carni, non tutte ormai, arrivano dal nostro allevamento. Il resto arrivano sempre da allevamenti della nostra associazione, che è la Coalvi, che appunto tutela la razza piemontese, e quindi da un allevamento scelto da noi per appunto affiancarci nella nostra produzione. Quindi questa è la realtà. Senta Francesco, quindi carne in cui la tracciabilità è, diciamo, addirittura a chilometro zero da voi a Rivoli a Torino? La tracciabilità è sicuramente a chilometro zero. La tracciabilità mi permette di dire che è una delle cose cui bisogna garantire, ovviamente. Ecco, ecco. Non è tutto, voglio dire, è assolutamente. La qualità non si fa con la rintracciabilità. La rintracciabilità è una cosa dovuta, è assolutamente importantissima, ma non è tutto. Come non è tutto nel mondo del fast food la carne, perché c'è tutto un mondo che bisogna costruire in un certo modo, se si crede a un certo tipo di filosofia, e quindi c'è il rispetto di quello che è tutta la filiera, dei fornitori, senza andare a strozzare appunto tutto quello che è la filiera, il rispetto dei lavoratori, perché in questa è una parte importante. Tenga presente che noi appunto in questi 4 anni comunque abbiamo creato 3 punti vendita, che sono 2 a Torino e 1 a Rivoli, e abbiamo 83 ragazzi che lavorano con noi, ma lavorano in un modo, con un modello che è sostenibile. Questa è la cosa importante. Beh, lei mi permette di fare anche a me una battuta, che tracciabilità, bio e chilometro zero non significano assolutamente qualità. Possono anche significare qualità, ma non è detto che queste tre, diciamo, ormai denominazioni, ormai luoghi che vengono usati, termini che vengono usati, non garantiscono al 100% la qualità. Ma andiamo in una macelleria. Sono perfettamente d'accordo. Andiamo in una macelleria ad Arzignano, in provincia di Vicenza, la macelleria Damini e Affini. Buongiorno Gian Pietro Damini. Buongiorno Davide. Senta Gian Pietro, qual è il segreto del vostro hamburger? Perché so che ha un grande successo di vendita, quindi no, voi non è che avete un'hamburgeria, ma avete una macelleria. Ecco, qual è il segreto? Cosa mettete? Cioè, segreti non ce ne sono. Noi l'abbiamo fatto, io e mio fratello, perché macellando, come gran parte di macellai, di seri, con etica professionale, bestie intere, l'anteriore, che abbiamo parlato più di una volta di bolliti, non si usa tutto il tempo dell'anno, e quindi mettendo i tagli meno pregiati, la spalla, il collo, la pancia, quindi una parte più magra e una parte un po' più grassa di questo hamburger, spiegando ai clienti, soprattutto io parlo adesso in macelleria, come cucinarlo, e io vedo che i bambini diventano, perché è segnale, i bambini, perché è morbidissimo, perché rispetto alla Svizzera di una volta, una volta si andava dal dottore e ti diceva bisogna mangiare carne, non tutti potevano permettersi il controfiletto, il roast beef e tutti i tagli pregiati, e si faceva la Svizzera magra. E mi ricordo che ogni tanto mia mamma me la faceva anche a me così, si cucinava molto, era stopposissima da mangiare, quasi mangiabile. Invece adesso, lasciando una parte un po' più grassa e poi cucinandola si scioglie, e lasciandolo bello rosa dentro, io vedo sia al ristorante, che noi riceviamo con il purè, oppure adesso con il purè di zucca d'estate col pomodorino, mio fratello fa varie ricette, i bambini diventano, ma perché la carne è morbidissima e ha un costo molto basso, e per quello bisogna rispettare quello. Quel chi è intervenuto all'inizio di Slow Food, che ha detto non so se si potrà continuare, se tutti i macellai, perché il problema del macellaio è sempre l'anteriore, ovvio, adesso perdoni, però se i grandi chef vogliono fare l'hamburger con il controfiletto, con il filetto, con i rosbi, sicuramente non si potrà continuare, ma se l'hamburger viene fatto con le parti come vi veniva fatto una volta, come facciamo noi, come fa la maggior parte dei macellai, ben venga, e ce ne saranno per tutti, con un risparmio, perché da noi un cliente porta a casa, ma non solo da noi, da tanti altri, magari chi è di Chianina, per la Chianina, ma 2,50 euro, 2,20 euro un hamburger di 200 grammi di carne. Bene, grazie. Carne. Grazie a Gian Pietro Damini per queste precisazioni. Io voglio anche ricordare un hamburger che è molto noto, secondo me è stato uno di quelli che ha dato anche il via, diciamo, all'acquisto dell'hamburger e non appunto dell'hamburger in hamburgeria. Voglio ricordare Giotto della Granda, appunto carne piemontese, e voglio ricordare anche Franco Cazzamali, un macellaio di Romanengo, che sicuramente è stato tra i primi a mettere sul mercato un hamburger come Dio comanda. Bene, sentiamo Marco da Novara. Buongiorno Marco, buongiorno. Bene, allora passiamo a Stefano dalla provincia di Genova. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Mia unica perplessità è il contenuto della carne. Ho sentito chi è intervenuto precedentemente che parlava della quantità di grasso, sì. Ma è fondamentale anche sapere che le carni oggi sono piene di additivi, e di ormoni e cose di questo tipo. È una carne che costa poco, secondo me non può avere un contenuto organolettico molto valido. Beh, mi sembra che abbiamo parlato anche di altre carni, abbiamo parlato di chianina, abbiamo parlato appunto di carne piemontese. Sto parlando della grossa distribuzione. Ok. Bene, bene questa precisazione, ma sentiamo anche Roberto dalla provincia di Milano. Buongiorno Roberto. Mi sente? Sì, la sento benissimo, prego, parli. Allora, come dicevo al centralino, io ho partecipato a vario titolo all'apertura dei primi hamburgerie in Italia, che non era McDonald's, ma è stato il Burghi e Quick. Devo confermare quanto diceva il direttore marketing di McDonald's sull'estrema attenzione, cura, scelta delle materie prime e tenore di grasso nelle carni molto basse, molto basso, proprio per dare un prodotto digeribile, sano e comunque genuino. È chiaro che facendo un hamburger con della chianina, con delle altre razze, chiaramente il prodotto viene migliore, ma perché una delle materie prime è migliore, ma come in qualsiasi preparazione che si può fare in casa, un arrosto fatto con una parte non perfettamente idonea a fare l'arrosto viene una cosa diversa e viene fatta bene. Molto poi dipende anche dalla capacità del cuoco, conseguentemente delle persone che hanno creato questi prodotti. Grazie Roberto. Luca da Firenze, 10 secondi. Luca. Bene, Luca non risponde e allora ci avviamo alla conclusione della trasmissione. Bene, abbiamo sentito un po' di tutto, però quello che resta è quale sarà il futuro appunto dell'hamburger. Certo che l'hamburger fatto con il filetto contro filetto sicuramente non è più un hamburger, è qualcosa di completamente diverso. Giustamente Damini ha posto il problema del consumo della carne. È evidente che più si utilizza il quarto anteriore, più si fanno calare i prezzi della carne in generale, magari sul posteriore, anzi è un modo per sicuramente razionalizzare la vendita di carne anche per le macellerie. Ovviamente stiamo parlando di macellerie, stiamo parlando di carne, che è carne di qualità. Abbiamo sentito le razze, abbiamo sentito anche, diciamo, i certificati. È evidente che la qualità, l'ho detto prima e lo ripeto, non dipende semplicemente da diciamo la tracciabilità messa e fissata in una parete di una macelleria o di un ristorante, ma dipende da tantissime altre cose, a cominciare dall'alimentazione. Se l'alimentazione dell'animale sicuramente non è fatta come Dio comanda, è evidente che anche se c'è la tracciabilità, la qualità della carne non è di livello. Bene, io ringrazio Isotta, ringrazio Peter Vescapè e Anita Riotti per diciamo la realizzazione di questa trasmissione. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Un caro saluto da Davide Paolini.